voi che negli affanni e nel dolor vivete, presto a Gesù correte al fonte di pietà. Con amorosa voce vi chiama se vi invita, la luce son la vita, la via la verità. Solo può darvi eterno bene e romper le catene, indegna servitù. Sovra le vostre spalle il giogo suo prendete e in cuor vi sentirete la pace di Gesù. Gesù.